quanti anni hai? Quanti amanti hai visto sospirare? Quante notti bianche hai vissuto tu? Quanti amori sono finiti? Luna, tu così vicina, ogni notte il mare va su e giù. A che abbaia il lupo nell'oscurità, luna maga misteriosa. Voci bianche cantano lenta una litania. Poi al mattino la luna è stanca, la luna è stanca. Luna tu, non andar via, luna maga, luna amica mia. Mi coinvolge tutto la tua compagnia, luna strana tu, lo sai. Yeah.